Canta la mappa, Atlante bizzarro di luoghi e storie curiose. Wuming. Il librone dei Canta la mappa. Hai mai sentito parlare di Guido e Adele Canta la mappa, i due grandi viaggiatori? È un cognome buffo, vero? Chissà se è il cognome oppure un soprannome. Nessuno lo ha mai saputo. Cognome o soprannome non importa poi tanto. Importa il fatto che Guido e Adele Canta la mappa sono due persone che ti sorprendono ogni volta che le vedi. E io posso dirlo, le vedo quasi tutti i giorni. Si chiamano Canta la mappa perché, come due cantastorie, raccontano i loro viaggi e i tanti posti che hanno visitato. Posti che stanno sulle mappe, oppure non ci stanno, oppure stanno su mappe strane che conoscono solo loro e pochi altri. E le storie sono tanto interessanti che ti pare di esserci in quei posti. E Guido e Adele le raccontano così bene che ti sembra di sentirli cantare. Cantano le mappe dei loro viaggi. E hanno davvero girato il mondo, i Canta la mappa. Forse di mondi ne hanno girato più di uno, perché al mondo ci sono tanti mondi. Il mondo dei sogni e il mondo reale. Il mondo dell'arte e il mondo del lavoro, il mondo delle api e il mondo delle scimmie, il mondo di sopra e il mondo di sotto, il mondo di Sofia e il mondo di Raimondo. Guido e Adele hanno cominciato a scarpinare e prendere navi e prendere barche, prendere aeroplani e prendere mongolfiere, prendere slitte, prendere trenini scassati e prendere cammelli, in generale prenderci gusto a non stare mai fermi quando i tuoi genitori erano ancora bambini. Anzi, forse quando i tuoi nonni erano ancora ragazzini. I Canta la mappa sono stati in Afghanistan, in Turkmenistan e in Assurdistan. In Messico e in Cronopia, in Melanesia e in Peranesia, in Antartide e in Fantastide, all'Equatore e all'Iniquatore, in Nebraska e in Lambrusca e in tanti altri posti che adesso non ricordo, ma poi di sicuro mi verranno in mente. Adesso sono vecchi, dicono di essersi fermati, ma gli amici, me compreso, non ci credono. Due così, come fanno a stare fermi? A ogni modo, sono appena andati a vivere in una vecchia cascina su un'isoletta in mezzo al lago di Brenno, poco fuori un paesino che tutti chiamano Borgata Pozzangherone. A pochi minuti di traghetto c'è un paese un po' più grande, Fessacchiopoli, dove ci sono la scuola, il campo da calcio e persino una biblioteca. Lo dico perché lo so, il bibliotecario di Fessacchiopoli sono io. Piacere di conoscerti. Quando Guido e Adele sono arrivati nell'aia della cascina, vicino a casa mia, io l'ho saputo nel più bislacco dei modi. Ho ricevuto una cartolina, anzi, 3, 4, 7, forse 10 cartoline, tutte spedite da luoghi diversi. No, non erano nella cassetta della posta, sono entrate dalla finestra, portate dal vento che quella mattina soffiava forte. Stupito, le ho raccolte dal pavimento. Venivano dal Pakistan, dal Nepal, dall'India, dal Perù, dalla Terra del Fuoco. Alcune erano molto vecchie. Il cartoncino era giallo e consumato. Erano tutte firmate Guido e Adele. Ma che succede? Mi sono chiesto. Ho guardato dalla finestra e sono rimasta a bocca aperta perché ho visto per la prima volta l'autopesce. Sì, Guido e Adele hanno un'automobile dipinta a squame gialle, rosse e blu. Anche la forma ricorda quella di un grosso pesce. Il muso è lungo e appuntito, con i fari come due occhi da predatore. La coda è così bassa che quasi tocca terra, mentre le ruote spuntano appena sotto la carrozzeria. Sopra il tettuccio bianco si alza, dritta e impettita, una pinna seghettata. Quando l'ho vista per la prima volta, l'autopesce stava entrando nell'aia della cascina col bagagliaio aperto, lasciandosi dietro una scia di cartoline. Poi si è fermata. Si è aperta anche una portiera ed è balzato fuori un coso. Un animale peloso e marrone con orecchie piccole, gambette corte, dentoni da castore e un sederone che andava su e giù mentre il coso correva via. Glaston, vieni qui! Gli ha urlato dietro Adele, più divertita che arrabbiata. Glaston, l'animale mai visto prima, è arrivato fino al laghetto lì vicino e ha cominciato a rotolarsi nell'acqua e nel fango, felicissimo. Il laghetto sarebbe un lago su un'isola dentro un lago, ma è talmente piccolo che la gente del luogo lo ha sempre chiamato il Pozzangherone. Ecco perché, per tutti quanti, il gruppo di case lì vicino è Borgata Pozzangherone. Guido e Adele sono scesi dall'autopesce, eppure loro mi sono sembrati strani forte. Guido porta sempre un cappello da cowboy, ha occhiali con la montatura rosso ciliegia, una barbetta bianca da cinese e una treccia di capelli grigi lunga fino al sedere. Porta camicie senza colletto con gilet coloratissimi, jeans pieni di toppe che saranno poco meno vecchi di lui, e stando all'infradito col calzino bianco, come li vedi nei cartoni animati giapponesi. Anche Adele ha gli occhiali, ma con una montatura azzurra brillante e una treccia grigia ancora più lunga di quella del marito. Io dico marito, ma mica lo so se sono sposati. Porta vestiti larghi e variopinti che si intonano con i gilet che regala Guido. Incuriosito, sono uscito di casa per salutare, presentarmi e restituire le cartoline. Ed è così che ho conosciuto i miei nuovi amici. È stato meno di un anno fa. Grazie mille, mi ha detto Adele. Quel bagagliaio dovremmo sistemarlo prima o poi. Stavo per chiedere che bestia fosse quella che sguazzava nel Pozzangherone, quando si è sentito il rombo di un motore. Ed è arrivato il camion del trasloco, appena sceso dal traghetto delle 10, e da quel momento è stata una festa per gli occhi, perché da quel cassone si è visto uscire di tutto: chitarre, trombe, un corno svizzero di quelli lunghissimi, balestre, cerbottane, serpenti a mollo nel liquido verdognolo di grossi barattoli, narghilè di tutte le forme. Sono delle specie di pipe ad acqua i narghilè. Misteriosi macchinari, un computer che sarà stato poco meno vecchio dei jeans di Guido. C'era persino una di quelle statue dell'isola di Pasqua, un Moai. È una riproduzione, ha detto Guido sorridendo. E scatoloni su scatoloni di libri. Libri, libri e ancora libri, quadri. Statue, statuette, rotoli di corda, mazze da hockey, zaini, borse, borsoni, macchine fotografiche di quelle antiche, quelle col soffietto a fisarmonica. E fisarmoniche, almeno tre. Matasse di cordini intrecciati che, boh, vai a capire cos'erano. Vasi giganteschi, tutti decorati. Vasi da fiori con dentro piante venute da chissà dove. E altri oggetti che li ho dimenticati, ma c'erano. Tutte carabattole che i Cantalamappa hanno portato a casa dai loro lunghi e numerosi viaggi. A me piacciono i libri, per questo faccio il bibliotecario. Per me la cosa più interessante che i Cantalamappa si portano dietro, e lo fanno da sempre, è proprio un libro enorme. Largo come le spalle di un campione di nuoto e grosso come due forme di parmigiano. È il loro librone dei viaggi. Dentro ci hanno scritto i loro pensieri e incollato ritagli di giornali, di riviste, di mappe, di dépliant e di tutti i biglietti dei mezzi di trasporto che hanno usato. E quando non c'erano i biglietti, ci hanno incollato altro. Che ne so, una ciocca di pelo del dromedario che hanno preso in Tunisia, o l'autografo del tizio che gli ha noleggiato la slitta nella terra delle Labrador, eccetera. Il librone dei viaggi hanno cominciato a scriverlo 20, 50 o 17 anni fa, e chissà se adesso smetteranno. Quando vado a trovare Guido e Adele, il librone mi ha tira come una calamita e non mi stanco mai di sfogliarlo. Ti piacerebbe darci un'occhiata? Il cane di Glastonbury. Il giorno dopo, Tornato dal mio lavoro in biblioteca, sono andato a trovare Guido e Adele che mi hanno offerto tè e pasticcini. Per prima cosa ho chiesto a Guido che animale fosse quello che chiamavano Glaston. È un capibara, mi ha detto. Un capiché? Guido mi ha spiegato che capibara è una parola sudamericana, perché è là che vivono i capibara, in Sud America, che da qui è parecchio distante. A guardarlo bene sembra un castoro troppo cresciuto, ma senza la coda, con le zampe da maiale e il pelo più lungo e più rado. Guido mi ha detto che mangia soprattutto mais, patate e verdure. Gli piace anche sgranocchiare la canna da zucchero, ma qui non è facile trovarla. Guido e Adele lo accudiscono come se fosse un cane o addirittura un bambino. Dopo che ha sguazzato ben bene nel pozzangherone, gli fanno il bagno nella vasca e lo asciugano con un grande asciugamano giallo. A volte gli chiedono un bacino e Glaston strofina il muso sulle loro guance. Quando ho chiesto in quale parte del Sud America lo avessero trovato, Adele ha sorriso e mi ha risposto: "Oh, ma Glaston non è sudamericano, è inglese." A quel punto avevo le idee un po' confuse e per chiarirmele, Adele ha pensato bene di raccontarmi tutta la storia, che in realtà sono due. Ha pescato dal librone dei viaggi una fotografia in bianco e nero e me l'ha fatta vedere. C'erano un ragazzo e una ragazza di circa 20 anni, con i capelli lunghi e un gran sorriso. Erano seduti abbracciati su un muretto di pietre, con i campi coltivati sullo sfondo. A guardare bene, ti accorgevi che erano proprio loro. Adele e Guido, da giovani. Questa foto è stata scattata nel 1970 in Inghilterra, nella fattoria di un nostro amico. Nel 1970, Adele e Guido decisero di fare un viaggio in Inghilterra perché amavano la musica e la campagna inglese. Siccome avevano pochi soldi, viaggiavano con lo zaino in spalla facendo l'autostop. Un giorno, mentre camminavano lungo una strada di campagna, tenendo il pollice in fuori, perché è così che si fa l'autostop, un'automobile che passava di là si fermò. La guidava un giovane inglese con gli occhi azzurri che offrì loro un passaggio. Si chiamava Edwig. Disse che portava il nome di un antico re, però non viveva in un castello, ma in una fattoria. Accanto a lui sedeva sua moglie Joan, una ragazza molto simpatica che, dopo aver scambiato quattro chiacchiere con Guido e Adele, domandò se volevano piantare la tenda nel loro giardino. La fattoria di Edwin e Joan era poco distante dalla cittadina di Glastonbury ed era un posto bellissimo, con tanti animali, circondata da campi e prati. Guido e Adele furono ben felici di accettare. Quella sera, quando furono tutti e quattro davanti al caminetto acceso, Joan raccontò ai due fidanzati la storia di Glastonbury. Fin dai tempi antichi, gli abitanti di quella parte d'Inghilterra lo consideravano un posto particolare. Secondo un'antica leggenda, quello sarebbe il luogo in cui morì Re Artù e dove venne sepolto insieme alla regina Ginevra. Altri dicono che in un'abbazia della zona venne conservato il calice usato da Gesù nella sua ultima cena. Ma la cosa più strana che Joan raccontò fu un'altra. Era la storia dello zodiaco di Glastonbury. Se prendi una mappa o una fotografia fatta dall'aereo delle campagne intorno a Glastonbury e unisci con la matita le strade più antiche, i fiumi, le chiese, alcuni villaggi, puoi ottenere il disegno delle 12 costellazioni dello zodiaco disposte in un cerchio. E fuori dal cerchio, un poco più a sud-ovest, si può disegnare una tredicesima figura che rappresenta un cane. Ma che c'entra il cane con la Vergine, i gemelli, l'acquario e tutti gli altri segni? Dicono che sta lì per fare la guardia al ciclo dello zodiaco, cioè sorveglia lo scorrere dei mesi e delle stagioni perché nessuno lo interrompa. Non si sa se quelle figure siano casuali o se davvero furono gli antichi abitanti dell'Inghilterra a immaginarle e riprodurle sul territorio, ma una cosa è certa, nella mappa di Joan si vedevano benissimo. Questa storia affascinò tanto Guido e Adele che Joan decise di regalare loro la mappa, e infatti adesso sta nel librone dei viaggi. Molti anni più tardi, i Cantalamappa tornarono a Glastonbury e aggiunsero la seconda parte della storia. Questa volta non fecero l'autostop e non avevano zaini, ma due valigie con le ruote e l'autopesce. Però avevano la tenda, come da ragazzi, perché volevano festeggiare 40 anni di vita insieme e volevano farlo nella fattoria di Edwin e Joan. I due vecchi proprietari di sicuro li avrebbero ospitati volentieri, ma purtroppo nel frattempo erano morti e la fattoria era ormai un rudere abbandonato. Guido e Adele piantarono la tenda nel vecchio giardino, gonfiarono i materassini, prepararono i sacchi a pelo e stavano per cuocere la cena sul fornello a gas quando un signore in bicicletta si fermò dall'altra parte della staccionata e li mise in guardia contro il cane di Glastonbury. «Quale? Quello dello zodiaco?» domandò Adele. L'uomo rispose di no. Si trattava di un cane vero, un randagio, probabilmente scappato da qualche fattoria nelle vicinanze. Si diceva che avesse sgozzato un paio di galline e che avesse rubato mezzo chilo di salsicce dal camper di due turisti. Altri campeggiatori erano stati morsicati. Addirittura qualcuno diceva che un barboncino era stato azzannato e trascinato via, anche se altri sostenevano che erano stati vicini a farlo sparire, perché abbaiava in continuazione e non li lasciava dormire. Qualcuno diceva che era un cane di taglia media, piuttosto docile. Altri che era un cane enorme, nero e assetato di sangue. Si capisce quindi perché quella notte, quando sentì un rumore di zampe che raspavano la terra, Guido Cantalamappa si preoccupò. Anche Adele aprì gli occhi per via di quel rumore, appena in tempo per vedere la testa dell'animale fare capolino attraverso la zip della tenda, che era aperta a metà per far passare l'aria. Solo che non fu un muso di cane ringhioso quello che apparve, ma un grosso testone quadrato con denti da roditori e piccole, buffe orecchie. Ebbene sì, si trattava proprio del capibara, attirato dall'odore di un pacchetto di zucchero di canna che i Cantalamappa usavano per addolcire il caffè. Fu amore a prima vista. Giusto il tempo di sbafarsi il pacchetto di zucchero e il capibara si piazzò dentro la tenda, strofinandosi su Adele e Guido. Cosa ci facesse un capibara a spasso per la campagna inglese non lo seppero mai. Forse era scappato da uno zoo. Ce n'era uno proprio nelle vicinanze, ma ad Adele e Guido non piacevano gli zoo, li trovavano luoghi tristi dove gli animali vivevano reclusi. Quindi non andarono a chiedere se per caso da qualche recinto fosse scappato un capibara, preferirono tenerselo. Fu Adele a scegliere il nome, Glaston, in onore del cane di Glastonbury. E quando ha finito di raccontarmi la storia, ha fatto scorrere la matita sulla mappa con lo zodiaco e mi ha fatto vedere che, unendo altri punti, strade e canali, la figura del cane si può modificare. Il dorso si inarca, il muso si schiaccia e diventa più quadrato, le orecchie rimpiccioliscono ed ecco sotto i miei occhi il profilo di Glaston. Chissà se in cielo esiste anche la costellazione del capibara. Il verme mongolo della morte. Ci ho messo poco a capire che le storie dei Cantalamappa sono popolate di animali. Alcuni veri, altri mai esistiti, altri ancora, chi lo sa? Di tutti gli esseri misteriosi incontrati da Guido e Adele, il più misterioso vive nel deserto del Gobi, in Mongolia. Non è che nel deserto, caldissimo d'estate e freddissimo d'inverno, vivano tante persone, ma spesso i deserti sono vuoti solo in apparenza e sono attraversati da carovane e da viaggiatori che portano con sé tante cose, oggetti e anche idee che viaggiano da un paese all'altro. I mongoli chiamano l'essere misterioso Algoi Korkoi, che significa verme budello. Ma poiché il nome è difficile, lo chiameremo, come fanno molti, il verme mongolo della morte. I mongoli, che discendono da fieri cavalieri nomadi, non temono quasi niente, ma di questo strano animale hanno paura. Dicono che attacchi cavalli e cammelli e che sia pericoloso anche per gli uomini, perché può mandare scariche elettriche e sputare una sostanza che brucia la pelle. Molti dicono di averlo visto, ma nessuno ne ha mai catturato uno e nemmeno fotografato. Per questo gli scienziati dubitano della sua esistenza. Ma se vai in Mongolia, come hanno fatto Adele e Guido, e chiedi alle persone che hanno attraversato il deserto, loro sono in grado di descrivertelo. Non è che sia proprio un verme, perché è spesso come un braccio, ed è lungo più di un metro, quindi non assomiglia né a un lombrico né a un bigattino. In Mongolia la gente dice che sembra un intestino di mucca. Ma Guido e Adele non avevano ben presente come fosse un intestino di mucca, quindi diventarono molto curiosi, perché quelle descrizioni non bastavano. Volevano vedere il verme e capire se era davvero così terribile e spaventoso. Il viaggio nel deserto non si può fare con l'autopesce, che è robusta e non si rompe mai, sì, ma solo se non le fai fare cose impossibili. Per andare nel deserto, tutti lo sanno, ci vogliono i cammelli, ci vogliono provviste e una guida. Il deserto del Gobi pare sia uno dei posti più inospitali della terra, quindi bisogna prepararsi davvero bene. Il viaggio fu lungo e difficile. I cammelli, quelli con due gobbe come si trovano là e anche quelli con una gobba sola, sono chiamati le navi del deserto. E infatti starci sopra fa venire il mal di mare per via dell'andatura dondolante. Di giorno c'era un caldo soffocante, si alzavano tempeste di sabbia. Di notte Guido e Adele mangiavano buon cibo mongolo che somiglia a quello cinese, specialmente i ravioli, e poi si stringevano vicino al fuoco perché il freddo diventava pungente, attraversava i vestiti e gelava le ossa. Il cielo era blu scurissimo, tempestato di sciami di stelle che brillavano come diamanti. Una notte, dopo tre giorni di deserto, la guida dei Cantalamappa fece un sogno terrificante e al mattino disse che non intendeva più proseguire. I Cantalamappa si guardarono e il cammello fece di no con la testa. Nemmeno la nave del deserto voleva proseguire la traversata. Così Guido e Adele tornarono indietro, ma in loro c'era ancora una speranza di incontrare il misterioso animale. La guida aveva detto che il verme mongolo predilige il colore giallo. Così Adele si cambiò d'abito e indossò un bel vestito mongolo, tutto di broccato giallo. Nubi solcavano il cielo e nell'aria c'era odore di pioggia. La guida aveva detto che il verme esce spesso prima o dopo i temporali. Nel deserto i temporali sono rarissimi, forse proprio per questo l'Algoi Korkoi è difficile da incontrare. Dopo poche ore di viaggio, le nubi si infittirono e il cielo divenne scuro come inchiostro. La guida disse che sarebbe piovuto, ma poco. Nel deserto non è detto che un cielo molto nuvoloso produca molta pioggia. Cadono grossi goccioloni lenti e quando cadono fanno buchi nella sabbia. Di colpo i cammelli si bloccarono, non volevano più proseguire. Da sotto la sabbia spuntò qualcosa. Sembrava guardare i Cantalamappa anche se non aveva occhi. Sembrava attirato dal vestito giallo di Adele. Infine uscì tutto. Ed era proprio lui, o lei, il verme mongolo della morte, grosso come un braccio, ma più lungo, rosso brillante, una bocca con denti dappertutto. Può fare paura quando si alza come un cobra davanti all'incantatore di serpente, ma Adele non era impaurita. Adele aveva un piano. Tirò fuori dallo zaino i ravioli al vapore che aveva conservato, come quelli del ristorante cinese, ma più buoni, e l'Algoi Korkoi sembrò annusarli, anche se non aveva il naso. Poi li mangiò. Mandò una scarica elettrica che fece scintille nell'aria bagnata di pioggia, quasi volesse ringraziare, e sparì di nuovo sotto la sabbia, veloce come un lampo rosso. I mostri, le belve, gli animali feroci, se li tratti con rispetto, ti mantieni alla giusta distanza e non li impaurisci, non fanno male a nessuno, perché amano starsene tranquilli, come tutti noi. Questo ha insegnato ai Cantalamappa l'avventura con l'Algoi Korkoi. Tutti lo chiamano il verme mongolo della morte, ma Guido e Adele lo ricordano come il verme mongolo dei ravioli.